right thing when you see it. We gotta move to a different place. Okay. Big J. Oh. Ok. 0-12. Buone nuove. Non so cosa dire né come attaccare. L'inizio è sempre un problema generale. Il mio è solo rap, mica suono regale. Sono mazzate, mica faccio karate. Non trovo la forma ma ho la sostanza. Ho la panza, è la lirica che avanza. Mangio spesso di tutto abbondanza. Non ho il cuore selvaggio, bonanza. Basta col solito tema alla vallanzasca. A volte bisogna saper parlare alla massa. Se questo qui è un problema che manca, perché chi ci comanda lo fa male abbastanza. Sono pazzo quanto basta, metto sale sulla traccia. Niente scuola di cucina, ho frequentato la caccia. Pochi l'han capita, spero almeno la metà. Ma mi sa, neanche metà della metà. Skit intermezzo, riprendo, riassetto. Tel mi guarda e pensa, cazzo stai dicendo? Vabbè ormai sono dislessico. Problemi con il dizionario come un bergamasco in Messico. È una traccia senza capo né coda, e la scrivo in meno di un'ora sola. Poi la rilego come la brutta scuola, e la cestino perché mi dico è una sola. Senti come suona il disco del sangue misto. Non parlavo del mio, chi cazzo l'ha mai visto? Ci vuole ancora tempo, salvo imprevisto. Se vinco al Gratta e Vinci, chi si è visto si è visto. No, tranquillizzo le fan in zona. Ho la fila alla porta come Raul Bova. Mi sbraitano, urlano, fanno la ola. Senti le urla, sia l'inquilino che sopra.